Buongiorno a tutti, sono Gianni Savio e benvenuti a Geronimo. Grazie che mille. Puedan disfrutar de esta transmisión, come diciamo noi in Sud America. Amiche e amici del ciclismo, della raclette, dei rösti, delle alte montagne, dei tagli stradali e soprattutto dei soldi, tanti tanti soldi, benvenuti alla nuova puntata. Quando uno dice soldi voi dovreste battere le mani come nel pezzo di Mahmood. Sì, è vero. Lo rifacciamo? Dei soldi. Ma che... no, non è così il suo nome. Perché Michele Pelacci non l'ha mai sentito. Non ha sentito Mahmood, perché mai Michele Pelacci è nato meno di 3 anni fa. No, pensavo fosse l'applauso finale, la canzone di Mahmood e Blanco, che ha vinto Sanremo, giusto? No, ha vinto Sanremo, ma senza Blanco. Esatto, avete già sentito le voci di Leonardo Piccione. Buenas noches, come diciamo noi in Sud America. Michele Pelacci. Viva Mahmood e Blanco. E Gianni Savio, che ci ha introdotto a una nuova puntata di Geronimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023, realizzato con le voci di Bidon e l'impagabile sostegno di Shimano. Puntata essenziale per svariate ragioni. Una su tutte, che oggi è il compleanno di Alessandro De Marchi. È vero, certo. Noi passeremo l'intera puntata a fare auguri al Dema, questo probabilmente è ciò che faremo. Dove siamo? Siamo in un appartamentino che ci siamo affittati poche ore fa a Crans Montana, dove... Al quinto piano, appartamento numero 27, ma non sappiamo darvi l'indirizzo. Adesso, mentre Leonardo lo cerca nel caso di cornucopie, siamo in questo luogo in cui, secondo me, se uno respira a pieni polmoni, gli sale l'estratto conto, cioè si respirano soldi in questo luogo. Oppure se li addebitano, invece l'estratto conto scende. Allora, si chiama Etablissement Leperon. Io vorrei dire solo una cosa per definire il luogo in cui siamo. Oggi ho visto un signore che portava fuori il cane, ovviamente un barboncino, essendo un ricco si sa che i ricchi hanno solo i barboncini, e per farlo cacare l'ha portato in un campo da golf. Credo sì, sia penso la, che renda l'idea. La definizione del luogo in cui ci troviamo, luogo in cui si è conclusa una tappa cortissima disputata interamente a bordo di degli autobus, ed è stata vinta dalla UAE. Bus della UAE ha sprintato alla fine dopo numerosi tentativi di fuga, e la corsa degli autobus si è conclusa così. Quindi João Almeida è la nuova maglia rosa del Giro. No, perché alla fine è gruppo compatto comunque. Sì, e Geraint Thomas è ancora la maglia rosa di questo Giro d'Italia, e la tappa poi accorciata e modificata è stata vinta da Einer Rubio della Movistar. Abbiamo sperato un po' tutti che ce la potesse fare Thibaut Pinot. Non perché siamo in una località francofona, ma perché Thibaut Pinot abita un po' i nostri cuori da tanto tempo. E oggi gli è sfuggita, l'ha buttata via, non sappiamo, ne parleremo a breve. Ma prima di tutto, prima di inoltrarci nella discussione sulla tappa e su tutto quello che è successo, un piccolo riassunto, come al solito, da parte del nostro Michele Pelacci. Inizio movimentato sulla croce del cuore, la Croix de Coeur, con la fuga buona che si crea poco prima dell'abitato di Verbier, composta da 7 corridori: G, Riccitello, Armirail, Pinot, Parepentre, Cepeda e Rubio. Pinot vince il GPM della suddetta Croce del Cuore. Per gran parte della fuga, della loro storia, insomma, in fuga, rimangono in 4, poi 3, perché si stacca anche G. Va detto che prima va detto una cosa fondamentale, sì, che ha scritto Alberto nel nostro gruppo, sì, guardando la corsa. Che in discesa appare Pentre ha pennellato le curve. Il pittore Valentino, fenomeno. Fenomeno, ricordiamolo, sì. Il fratello del vincitore di tappa, di qualche tappa fa, adesso non andiamo troppo nel dettaglio. Ma ritorniamo, hai detto si stacca G, rimangono in 3, no? Che sono Rubio, Cepeda e Pinot. Soprattutto gli ultimi due si attaccano e contrattaccano molte volte, ma alla fine, a sorpresa... Prevalentemente attacca Pinot. Sì. Però anche Cepeda ha fatto qualche attacchino, qualche Pinot lungo. Pinot penso abbia fatto il record mondiale di numero di scatti in una singola salita, sì, negli ultimi anni almeno. Rubio trova però lo spunto vincente tra gli uomini di classifica. Intanto la Ineos fa ritmo. Caruso e Carti attaccano, Thomas tiene la maglia. Attaccano, sì. Poi vedremo un po' che tipo di attacchi ci sono stati dagli uomini di classifica. Però andiamo un attimo sulla tappa, perché questa è la tipica definizione, secondo me, l'arrivo di oggi: tra i due litiganti il terzo gode. Cioè, i proverbi non sono stati fatti, inventati e studiati per caso, perché se le sono date di santa ragione Pino e Sepeda, e Rubio invece ha avuto la pazienza, la calma, l'intelligenza, la furbizia di farli sfogare, di far loro sprecare proprio energie, perché ha detto Rubio: io ero il meno forte dei tre, l'ha riconosciuto lui stesso, però loro due, attaccandosi, azzuffandosi come due gallettini, pollettini in un, come dire, in un'aia, hanno sprecato le loro energie, il vantaggio che avevano di energia, e Rubio poi è spuntato alla fine. E ha sì, vinto. Perché Rubio poi ha fatto l'elastico per tutta la salita, ogni volta che c'era uno scatto lui prendeva 3-5 metri e poi dopo quelli si riprendevano, si rialzavano un attimo e Rubio rientrava, e per cui è stato molto molto bravo tatticamente, anche molto fortunato nel trovarsi in una situazione tattica in cui lui non ha fatto niente in quel momento se non tenere duro. Che però è tanto, è fondamentale, tanto che ha vinto la tappa. Ha vinto la tappa e, ripeto, ha mantenuto la calma, secondo me è stata la chiave della vittoria. Ma ordine d'arrivo, poi chiave della vittoria è un'altra, parliamoci. Qual chiaro. È? E andare a riascoltare il podcast di ieri. Ah, e rendere merito al fatto che su tutto l'intero gruppo una persona ha pronosticato un singolo fuggitivo vincente ed era onore al merito. Rimane Michele come unico a non aver ancora indovinato un pronostico in questo Giro d'Italia, se non sbaglio, ma hai ancora delle occasioni. Leggiamo prima l'ordine d'arrivo della tappa di oggi. Ha vinto Enel Rubio su Thibaut Pinot a 6 secondi, quindi ha vinto proprio per distacco Rubio. Terzo Jefferson Cepeda della Education First a 12 secondi. Derek G è arrivato quarto, anche oggi grande prestazione di G, 1 minuto e 01, ha staccato addirittura il suo compagno di squadra, come ha detto Michele nel riassunto, Riccitello, che in teoria sembrava l'uomo della Israel per questa giornata, uno scalatore. G va più forte degli scalatori in salita in questo Giro d'Italia, e non solo in salita. Quinto Valentin Paré-Peintre insieme a Hugh Carty. Ecco, Hugh Carty è l'unico uomo di classifica, se vogliamo considerarlo uomo di classifica, è undicesimo, che ha guadagnato dei secondini, 6 secondi nello specifico, su tutti gli altri. Su João Almeida, che... Ha guadagnato dei secondini non è mai un augurio da fare a nessuno. Ha guadagnato, sì, 6 secondi su João Almeida, Eddie Dunbar, Geraint Thomas, Primoz Roglic, Lennart Kemna, Sepp Kuss e Damiano Caruso, che sono i componenti del gruppo Maglia Rosa. Peraltro, Carty, arrivando con Paré-Peintre Valentino, ha superato in classifica generale Paré-Peintre Aureliano. Così, questa cosa... Bella, bella piccola... statistica, bella statistica. C'è stato un superamento tra parenti. Sì, perché Carty è parente dei Paré-Peintre. Ah, perché sappiamo. No, giustamente è Carty che ha superato... Ah, ho capito. Carty ha superato Aurelien Paré-Peintre in classifica generale, giusto. Mi ero perso un attimo, ma... Torniamo su Enel Rubio, perché Enel Rubio ci ha parlato in conferenza stampa in italiano, perché Enel Rubio, lo saprete, immagino, risiede in Italia ormai da diversi anni, a Benevento nello specifico, che non viene in mente per prima come località italiana dove risiedono ciclisti. Enel Rubio sta a Benevento e Michele gli hai fatto un paio di domande, mi sembra. Sì, peraltro cominciando io, così coincidenza, non comincio mai di solito, però comincio io, prima domanda. In inglese, invece, insomma, chi gestiva la conferenza ha detto: no, no, guarda che parla italiano. Io, sinceramente, non lo sapevo. Per cui mi trovo a farla in italiano una domanda e mi dice che l'Italia è la sua seconda casa, addirittura, perché... Ma neanche lui oggi ha detto l'Italia è il paese che amo. No, c'è andato vicino, però, citando proprio questo paesino, in provincia di Benevento, che si chiama Pagovegliano, in cui ha trovato anche la ragazza, Michela, e corre lì, ha corso lì, anzi, da Under 23... Nel 2017 abita in Italia e ha i nipotini lì, ha la compagna appunto che lavora lì, insomma si diverte molto. Ho detto che le strade a Pagovegliano sono libere di traffico e lo divertono. Bello trovare un corridore a Benevento. E poi un corridore che vive in un posto che si chiama Pago ha vinto a Crans-Montana, dove mi sembra che sia il verbo più diffuso. Almeno. Tra l'altro io non ho visto la premiazione, ma al vincitore hanno dato un mega bigliettone delle Ferrovie Svizzere? Non ho visto, non ero non sotto il sappiamo, palco delle premiazioni. Chiediamo ai nostri ascoltatori, perché quello vale. Sì, vale di più. È un bel affare. Ma sì, Rubio rilassato, ovviamente, ha vinto la tappa, come abbiamo ampiamente raccontato. Invece Cepeda, poverino, dopo l'arrivo era un pochino più... Ma in realtà era molto contento. Io ci ho parlato un minuto dopo l'arrivo e gli ho chiesto un attimo, perché è stata veramente una giornata, una sfida di gambe e di sguardi, e anche di parole in realtà, e non solo di sguardi, ma di sguardi ne sono volati tanti. Ma Cepeda molto banalmente ha detto che dalla radiolina gli hanno detto di non dare cambi, di non tirare, perché Carty è rivale di Pinot in classifica, per cui lui aveva Carty dietro, che tra l'altro si stava muovendo e non poteva aiutare. Non so se sia una scusa o meno, ma immagino che in radiolina gliel'abbiano detto davvero. Era molto sorridente comunque, per cui mi ha stupito, tanto che gli ho chiesto se era felice, mi ha detto no, non avrei voluto vincere la tappa, per cui sorridente. Erano sorrisi di circostanza. No, erano spontanei, ma non era felice, perché felice era Enel Rubio, che ha vinto la tappa, e immagino che non fosse particolarmente felice neanche il buon Tibotto Pinotto. No, non lo era, non lo era. Io temevo a un certo punto che dopo l'arrivo fossero volate, come dire... Le lacrime. Le lacrime ci sono state. Non c'è tappa che finisce senza scoppiare in lacrime. No, succede spesso. Pensavo che Pinot e Cepeda si sarebbero affrontati su un ring, ma non è stato così, se le sono date solo sulla salita, come è giusto che sia. E Pinot ovviamente era dispiaciuto, possiamo dire Pinot Noir. Era perché l'abbiamo bevuto a lungo al buffet e non era granché questo Pinot Noir delle valli dove ci troviamo, valli svizzere. Infatti io proverei a parlare anche di Pinot Azzurro, perché ha preso la maglia azzurra, è tornato in maglia azzurra conquistando... prima i punti del primo GPM tutti quanti e poi seconda posizione per Clément Montana, ora 10 punti in più di Davide Bais. Sì, diciamo un piccolo premio di consolazione per il momento, chissà che poi non diventi poi il suo obiettivo vero in questo Giro d'Italia. Secondo me non lo è, lui vuole vincere una tappa e oggi l'ha persa proprio forse perché la voleva vincere troppo. Mentre è vero che il Pinot Noir è il nostro obiettivo vero del Giro d'Italia. No, sì, anche uno degli obiettivi uno di questo Giro d'Italia. Ci siamo dati tanti obiettivi. Ieri dicevamo il ciclismo è uno sport semplice, qualche volta il più forte vince, oggi forse il più forte non ha vinto, perché il più forte sembrava essere Thibaut Pinot e la troppa voglia di vincere lo ha un po' preso in castagna. Ha voluto strafare, forse strafare è il verbo giusto per descrivere quello che ha fatto Pinot oggi, perché nel novero delle disgrazie della sua carriera, questa è diversa, questa non è una sconfitta piovuta dal cielo, questa è una sconfitta un po' che, non voglio dire si è cercato, però è figlia della... di una tattica di gara sbagliata che non possiamo non criticare, ma non possiamo non amare anche dall'altro punto di vista, perché il cuore che ci mette sempre Pinot è la sua cifra, no? È questo suo desiderio di ottenere questa vittoria a tutti i costi oggi, non lo so, è ambivalente, è da un lato il motivo per cui gli vogliamo bene, dall'altro obiettivamente è un errore, è stata fonte oggi per lui di un errore piuttosto grave, no? Sì, boh, onestamente, nel senso che non userei oggi il termine piovuta dal cielo, così in generale secondo me è un termine da cui è meglio stare lontani. E cioè sì, è chiaro che avrebbe potuto giocarsela diversamente, risparmiare un po' di energie per tenersele per lo sprint, però ci ha provato e riprovato e riprovato e riprovato, cioè... Non lo so, tatticamente rivedibile, non, come sempre i sei ma non ci sono, io non saprei dire se Pinot fosse stato andato più al risparmio, allora il finale di tappa sarebbe andato diversamente. No, certo, non avremo mai la controprova come sempre in queste situazioni. Torno rapidissimamente all'inizio della tappa, quando lui aveva Armirail con sé nella fuga e ha attaccato sulla prima salita, staccando il suo compagno di squadra, che gli sarebbe tornato molto utile più avanti, nel tratto pianeggiante prima dell'ultima salita. In quel momento ha staccato anche Matthew Riccitello e si è inimicato Derek G, che da quel momento in poi non gli ha più dato un cambio davanti. Quindi ha fatto tutta una serie, secondo me, di scelte Pinot oggi che l'hanno portato poi alla fine a non vincere la tappa. Sì, e a inimicarsi tutti noi, perché se stacchi Matthew Riccitello, se non sei nemico di Matthew Riccitello, sei mio nemico. Sì. Direi, visto che l'abbiamo menzionato, stravolgiamo un attimo la nostra scaletta e prima di dire alcune altre cose su Pinot, andiamoci ad ascoltare proprio Matthew Riccitello. Oh. In parte protagonista della tappa di oggi, perché Michele l'ha fermato subito dopo la linea del traguardo. How was the stage? You were on the break then? I got dropped before the descent, unfortunately. I just didn't have legs on the On the first climb, I didn't feel too great. I don't know why, but fortunately, we had Derek, who's riding super, super strong. And I mean, he saved the day. He was able to stay up there when I was tailed off. So, yeah, I think it was a super good day for the team with Derek up there. Then you were able to stay with the big guys, with the top GC guys. Tell us about the last climb. I didn't want to cruise to the finish. I wanted to do a good effort to the finish just to see where my legs are at after the bit of sickness. So, yeah, I mean, honestly, I expected to be able to stay with them. I wanted more. I wanted to be up the road with Derek to help fight for the stage, but yeah. And last one, Matt. Why Fanta after the stage? It's just the sugar, I think, is good, and I like the taste, so. Thank you for your time, mate. Sì, avete sentito la mia chiacchierata di un minutino neanche con Matt Riccitello. Subito dopo l'arrivo gli ho chiesto come è andata la tappa, che lo ha visto in fuga, ma poi, me lo dice lui stesso, non ha avuto le gambe per stare coi primi sulla prima salita, sulla Croce del Cuore, non si sentiva bene e non sa perché. Ma fortunatamente davanti c'era Derek, G, che è in gran forma ed è riuscito a rimanere davanti quando io mi sono staccato. Penso, dice Riccitello, sia stata una buona giornata per la squadra. Poi gli ho chiesto dell'ultima salita e lui mi ha risposto che non voleva arrivare col pilota automatico, insomma, all'arrivo, ma sforzarsi per provare a rimanere coi migliori. Una sorta di test che voleva autoimporsi. Avrei voluto rimanere in fuga, avrei voluto lottare per la tappa. Infine gli ho chiesto, perché stava bevendo una piccola lattina di Fanta, perché l'ho visto bere, appunto, no? Questa bevanda gassata, se gli piace o perché la beve, e lui mi ha risposto che è per lo zucchero, ma anche perché la bevanda ha un buon gusto e quindi Riccitello è fan di... Ti confermo che è molto diffusa in generale tra i ciclisti nel post-tappa come bevanda. La noterai spesso anche nei prossimi giorni, credo. Riccitello è il più giovane in questo Giro d'Italia, ricordiamo 2002. Torniamo però invece a Thibaut Pinot, perché, visto che un po' è l'argomento di giornata, il protagonista forse di questa tappa... Che sia l'argomento di giornata, te lo lascio quello credere. Quello sportivo, quello diciamo che riguarda la tappa, che riguarda l'agonismo, mettiamola così. Perché abbiamo parlato in sala stampa con forse l'uomo su questo pianeta che ha scritto di più in assoluto finora su Thibaut Pinot, perché si tratta di Alexandre Rose, giornalista dell'Equipe, penna straordinaria, a cui abbiamo chiesto un po' qualcosa di più sulla tappa di oggi e in generale su questo Giro d'Italia, l'ultimo della carriera di Thibaut Pinot. Allora, siamo con Alexandre Rose dell'Equipe. Welcome back to the Giro. Ciao. So, how are you? We are a little bit sad about the ending of the stage because, you know, everybody is happy when Thibaut wins, and today he was very close and maybe he threw away the win. What do you think? Yeah, a little bit. I think he was very, very strong, probably the strongest of the three. Maybe he wanted the win so much that he attacked so many times. And then also, I think it's not easy to have two riders with you that don't pull at all. So I think he was a little bit angry about that also. So in the end, yeah. I would say typical Pinot. We love his imperfections, but it's also a good sign for the rest of the Giro because I think he has good legs, and usually when he has not a bad day but a setback like today, usually he rebounds the next day. So maybe we can expect him attacking again and maybe going for a stage. Quindi le abbiamo chiesto, siamo un po' tutti tristi oggi perché quando Pinot vince siamo felici e oggi lui ci è andato molto vicino, anzi potremmo dire che forse ha buttato via la vittoria, e Rose ha risposto sì, oggi Thibaut era molto molto forte, probabilmente il più forte dei tre, e voleva troppo la vittoria, per questo ha attaccato così tanto. Inoltre, aggiunge, non è semplice trovarsi con due corridori che non tirano mai, come obiettivamente è stato, quindi penso fosse anche un po' arrabbiato lui. Complessivamente direi tipico Pinot, come sempre amiamo le sue imperfezioni, dice Rose, però allo stesso tempo quello che è successo oggi è un buon segno per il prosieguo del giro perché ha dimostrato di avere delle buone gambe e di solito lui dopo questo tipo di battute d'arresto reagisce e quindi possiamo immaginarlo presto di nuovo. Do you think this can be the limit of this last season of Pinot, wanting too much? Yes, maybe, because he doesn't want to do a last season like a parade, just like saying goodbye to everyone. And he also, the Giro is biggest objective of the year, because he wants to erase the deception of 2018, when he had to go back home, to go to the hospital, whereas he was targeting a podium. So yes, I'm sure he has a little bit of pressure for that. But also I can tell that in the team, everybody finds that he's very more relaxed this year than the previous year. So it's a little bit of combination of the two. E qui Filippo gli ha chiesto, pensi che questo possa essere un po' il limite di quest'ultima stagione di Pinot, volere troppo? E Rose ha risposto, sì, forse, perché lui non vuole che questa sua stagione sia una parata, dire addio e basta. Inoltre il Giro è il suo obiettivo principale della stagione, perché vuole a tutti i costi cancellare la memoria del 2018, quando, come ricorderete, finì in ospedale a poche tappe dalla fine, mentre puntava al podio. Quindi ha un po' di pressione forse addosso per questo. Allo stesso tempo però tutti in squadra dicono che lui non è mai stato così rilassato. Quindi c'è un po' una combinazione, un misto di queste due cose. Are you ready to write that six pages farewell to Thibaut Pinot at the end of the season on L'Equipe? I already wrote a lot in January when he announced his retirement at the end of the season. But yes, I'm ready. I'm thinking about it a little bit. Plus, it's going to be in Italy again, tour of Giro di Lombardia. So I think it's going to be quite a special moment. Maybe it's going to be a book. Maybe a book, yeah. We'll see. Poi l'ultima domanda, sei pronto a scrivere uno speciale di 6 pagine sull'Equipe a fine stagione, quando sarà terminata la carriera di Pinot? E Rose ha riso un po' e poi ha detto, in realtà ho scritto già molto a gennaio, quando lui ha annunciato il ritiro, però sì, sono pronto, ci sto già pensando da un pochino di tempo. Lui in ogni caso finirà la stagione e la carriera in Italia, al Giro di Lombardia, quindi quello sì sarà un momento veramente speciale. E gli ho detto, forse verrà fuori un libro più che un articolo, e lui ha risposto, sì, forse un libro, vedremo quello che sarà. E attendiamo di leggere cosa scriverà Alexandre Rose già domani sul Pinot di oggi, e possiamo dire che Pinot è un po' la croce del nostro cuore, visto che l'abbiamo nominata come salita di giornata. Volevo utilizzare un toponimo, una croce sul cuore, va bene. Andiamo avanti perché ci viene facile andare avanti, perché con la sua azione di oggi Thibaut Pinot è rientrato nella top 10, nella classifica generale, che vado prontamente a leggere perché in maglia rosa c'è sempre Geraint Thomas con 2 secondi di vantaggio su Roglic e 22 su João Almeida. Al quarto posto c'è Andreas Leknessund, che ha perso qualche secondo oggi ed è a 42 dalla maglia rosa. Quinto è sempre Damiano Caruso a 1,28, sesto Kemna a 1,52, a seguire Dunbar, Arensman e De Plus, i due Ineos compagni di squadra di Thomas, e decimo, come dicevo per l'appunto, Thibaut Pinot, che guadagna 5 posizioni ed è a 3 minuti e 13 dalla maglia rosa. Undicesimo Carty, che dicevamo ha superato Aurélien Paré-Peintre. Cosa dire degli uomini di classifica? Michele, hai detto nel riassunto che c'è stato un tentativino di Damiano Caruso, si è visto in testa a un certo punto, non ha fatto il vuoto, non ha ottenuto nessun secondino di vantaggio, però ci ha provato, sicuramente è nella battaglia per il podio quantomeno di questo giro. Abbiamo parlato tu nello specifico con Geraint Thomas invece in conferenza stampa, come l'hai visto? L'ho visto contento, raggiante, soprattutto perché la sua squadra si è dimostrata molto forte in salita. Ha parlato bene di Sivakov, che è tornato dagli acciacchi, di Puccio, di, se non ho capito male, l'ha chiamato De Pluschi, Lorenzo De Plus, che ha fatto un gran ritmo per tantissima parte dell'ultima salita. Swifty molto... ha menzionato. Swifty anche, esatto. Che è Ben Swift. Insomma, interessante e significativo anche però il fatto che la Ineos comunque non ha voluto lasciare la maglia. quando Santiago Buitrago ha fatto un po' il ritmo negli ultimi chilometri per Caruso, la Ineos è rimasta lì. Vogliono tenere, secondo me hanno anche orgoglio nel tenere la maglia, no? La Ineos per natura è, come dire, si trova nel suo mondo ideale quando può difendersi, no? Per proprio costituzione e storia di questa squadra. Agli altri, a Roglic, non interessa in questo momento assumersi le responsabilità di prendere la maglia rosa, quindi andava bene un po' a tutti e ce lo aspettavamo che andasse così. Quello che non ci aspettavamo oggi, o almeno noi non pensavamo che potesse venire fuori tutto questo pandemonio, è avvenuto prima della partenza di tappa, perché Thomas è stato uno dei corridori protagonisti, essendo la maglia rosa, essendo uno dei più rappresentativi, carismatici, di una discussione che è avvenuta, abbiamo appreso in serata, quindi ieri sera, sulla partenza, accorciamento, annullamento della prima parte della tappa di oggi, che poi è diventato un po' l'argomento di cui tutti stanno parlando in queste ore, no? Tranne noi. Tranne noi, che abbiamo già dedicato gran parte della puntata alla tappa. Comunque non ci hanno preso alla sprovvista, nel senso che un po' in qualche modo ce lo potevamo aspettare. La tappa di oggi è già da ieri che si parlava di una serie di passaggi a rischio. È da ieri, e fino a ieri abbiamo visto delle belle cariche di maltempo, oltre a tutte le malattie che sono circolate in gruppo, per cui che questa fosse la giornata in cui c'erano forti probabilità di fare la semitappa coi bus, secondo me era abbastanza lampante già da ieri. Poi non voleva dire che sarebbe successo, è successo. Sì, i corridori sono stati abbastanza unanimi nel raggiungere questa decisione in accordo con l'organizzatore, quindi c'è stato un compromesso, che in certe situazioni è una soluzione anche giusta e buona, no? Perché l'alternativa sarebbe uno scontro tra le parti che raramente porta risultati positivi. C'è stato un compromesso tra corridori e organizzazione ed è venuta fuori questa tappa su cui si discuterà a lungo. Noi non lo faremo, ne stiamo parlando, però lo facciamo facendo introdurre l'argomento a uno dei corridori che hanno preso parte a questa discussione, colui che compie 37 anni oggi, Alessandro De Marchi. L'abbiamo fermato dopo il traguardo e gli abbiamo chiesto un po' cosa ne pensa lui di questa decisione presa. De Marchi, beh, innanzitutto tanti auguri. Grazie. È stato uno dei compleanni più complicati della tua vita? Bah, in realtà no, insomma, la tappa è stata quella che è stata. Purtroppo io sono il primo che avrebbe preferito fare 5.000 metri di dislivello. Però non era la giornata oggi, non era. Era un terno all'otto che, ahimè, il tempo ci ha alla fine ci ha aiutato, però era obiettivamente troppo tardi mettersi a cambiare, prendere le decisioni all'ultimo, ancora più all'ultimo di quello che abbiamo fatto. Era davvero un casino, bisogna partire da questo. Raccontate quanto è complessa la situazione, non una foto del sole sul San Bernardo e non ci sono più i corridori una volta. È un po' troppo, insomma. Senti, secondo te oggi il ciclismo e il Giro ne escono rafforzati, indeboliti o uguali? Ma da una giornata del genere cosa può cambiare? Abbiamo capito che dovremmo aver capito che tutto il carrozzone è qualcosa di complesso, è difficile da accontentare tutti, è difficile trovare la soluzione perfetta per RCS, per noi, per gli spettatori. Quindi quello che ci ha insegnato la giornata di oggi dovrebbe essere questo, e non che ciclismo va indietro e avanti. È questo. È una prova di unità però per voi. Ma sicuramente, su questo lato sì, alla fine credo che Adam Hansen sia la figura di cui avevamo bisogno per unire le forze, unire la voce e presentarci uniti di fronte alle varie parti, e non per fare la guerra, non per protestare, per tirarci indietro, semplicemente per andare tutti insieme nella stessa direzione nel modo migliore. Uri, pensi che ci sia qualcosa che si possa fare prima, cioè senza arrivare all'ultimo momento, la mattina della tappa, a decidere? Bisogna avere più chiarezza sulle informazioni del meteo e avere il coraggio di... No, avere il coraggio, mettere in piedi un sistema in cui le parti si parlino prima, perché la volontà da entrambe le parti c'è, solo che il sistema attuale è in ogni caso è complesso. Ci sono 22 squadre, 22 team, un organizzatore, la partenza, l'arrivo, quindi non è così semplice. Di sicuro l'altra cosa che abbiamo imparato è che dobbiamo parlare, trovare un sistema migliore che ci faccia parlare prima, in anticipo, e in un modo diverso. Spostare il giro in avanti può essere una soluzione tipo 2 settimane, non so, così. Così tanto, non festeggi il compleanno durante il giro. No, quello magari sì, così faccio una grigliata in santa pace a casa. Esatto. Ma anche questo, insomma, muovere il giro, un grande giro così. Poi tutto il resto, prova a immaginare le altre corse, di un giorno, una settimana, è un mondo complesso. È un mondo difficile, com'è che diceva qui. Ti lasciamo andare a scaldarti. La torta stasera c'è comunque. Penso di sì, insomma, dai. Brinderemo anche noi. Bene. Buona serata. Ciao. Auguri, Alessandro, ciao. È un mondo difficile. Citazione di Tonino Carotone. Che vabbè, è un mondo difficile, è un mondo che cambia, è un clima che cambia e lo stiamo vedendo drammaticamente in questi giorni, e non parlo di Giro d'Italia in questi casi, e bisogna trovare delle soluzioni, bisogna probabilmente per certe cose si possono immaginare prima, per certe cose forse bisogna trovare più che delle soluzioni un iter per arrivare alle soluzioni di volta in volta. Sì, che è quello che diceva un po' De Marchi, no? Che parlarsi per tempo. Io mi prendo 2 minuti, se me lo consentite, perché secondo me ci sono 3 contingenze in questo momento che si mischiano e vanno via via dal particolare all'universale. C'è la particolarità di questo giro d'Italia, che è un'anomalia con il tempo che stiamo avendo, la sfortuna anche che sembra un po' caratterizzarlo, il Covid. E tutto questo ha instillato nei corridori una sensazione di precarietà, di paura anche se vogliamo, che ieri è sfociata con le previsioni rispetto alla tappa di oggi in questa votazione, un po', ripeto, secondo me dettata proprio dal timore, dalla sfiducia generale per quello che sta accadendo. Poi a livello superiore c'è una situazione che riguarda il ciclismo, non solo il giro. C'è uno sport che sta cambiando, si discute, ma dobbiamo fare tappe più corte, ha senso ancora avere tappe più lunghe? Possiamo avere opinioni diverse su questo, però è una discussione che ha luogo in questo momento e che ha senso fare. È uno sport che non è lo sport di Merckx, non ha senso paragonarlo e dire però ai tempi di Merckx o di Moser o di chissà chi. Sì, per quanto ai tempi diverso. Di Merckx e di Moser ci fossero esattamente queste stesse discussioni paro, per cui non abbiamo neanche troppa diversità da questo punto di vista. E questa questa seconda settimana ha avuto tappe, direi, oggettivamente tutte molto, se non abbastanza, lunghe, per cui ci dici bene, Leo. Sì. E poi il terzo livello, che esula da questo giro e dallo sport del ciclismo, riguarda il mondo intero, perché stiamo vivendo in una situazione nuova, terribilmente nuova, che è il cambiamento climatico che stiamo vivendo, questi fenomeni estremi sempre più frequenti, e è una cosa che il ciclismo, che è uno sport che si svolge dentro il mondo, all'aperto, nei luoghi, deve prendere in considerazione. Perché le temperature sono diverse, i fenomeni atmosferici avvengono in modo e in tempi diversi nel corso dell'anno, e quindi è una discussione che andrà fatta a più livelli. Queste cose adesso si sovrappongono, si mischiano, si confondono, è difficile districarsi ed è facile prendere a volte decisioni sbagliate, senza, come dire, cattiva fede. E per quello dico, trovare un compromesso a volte è positivo. La stella polare non può essere lo spettacolo a tutti i costi, cioè il pubblico che deve divertirsi. La stella polare è sempre la salute dei corridori, no? Io credo che debba essere quello il riferimento. Trovare un modello che massimizzi il loro benessere, il resto poi viene a cascata, perché se i corridori si sentono protetti, rispettati e sicuri, danno anche più spettacolo in gara, a mio modo di vedere. Sì, sì e no, nel senso che secondo me un discorso sullo spettacolo c'è sulla tappa di oggi, ed è il motivo per cui io mi schiero, faccio un plauso veramente netto e convinto all'indirizzo di Mauro Vegni in questa tappa. Mi assumo tutte le mie responsabilità di questa cosa, nel senso che c'è stata una trattativa con i corridori. Noi non c'eravamo, lo ricostruiamo da tutto quello che abbiamo sentito in giro, e a questa trattativa si è arrivati a un compromesso. L'alternativa a questa cosa era vedere i corridori fare la tappa a 20 all'ora, gruppo compatto, e fare lo sciopero. E a questo punto ha senso salvare lo spettacolo della corsa e dici, taglio metà della tappa, ma almeno ho una corsa. La maglia rosa, che verosimilmente ha avuto voce in capitolo, anche perché è un corridore da anni in gruppo e carismatico, ha detto che effettivamente se fossero arrivati, diciamo, muro contro muro, i corridori avrebbero preso in considerazione la possibilità di scioperare. Certo, perché insomma sono uniti e questa forse è la vittoria più grande dei corridori in questa fase, che si riescono a trovare unione da questo punto di vista. E, infatti, se posso interromperti, ho fatto piacere anche sentire da De Marchi che anch'esso, no, un corridore carismatico da anni in gruppo, ha apprezzato il lavoro di Adam Hansen. Adam Hansen, che è poco che fa il lavoro che fa, per cui verosimilmente possiamo anche pensare che lo stia facendo bene e con frutto. Poi ripeto, in questa complessità che citava De Marchi si possono commettere errori, prendere decisioni sbagliate. L'importante è non andare appunto al muro contro muro, perché, come dire, siamo sulla stessa barca, i corridori, l'organizzazione, i tifosi. Stiamo vivendo su questa barca che sta affondando. Che no, vabbè, dai, adesso non essere così. È difficile essere ottimisti guardando a quello che succede col. No, come dire, no, nel mondo, allora, col cambiamento climatico. Dal punto di vista climatico, cioè, non è alcun dubbio, e anzi, ieri. Si è visto anche in corsa, ci sono state anche delle proteste proprio di ultima generazione all'interno della corsa, che hanno portato di nuovo questo tema alla luce, come se non fosse già ampiamente alla luce dalle notizie che vediamo tutti i giorni. Siamo come umanità su una barca che sta affondando, come ciclismo no, dai, non cioè, come parte dell'umanità affonderemo insieme all'umanità e ci estingueremo, e questo è il destino che ci attende. Nel frattempo magari possiamo vedere delle belle corse di ciclismo, no? Sì, possiamo fare un sacco di cose, tra cui guardare delle belle corse di ciclismo. Belle corse di ciclismo che secondo me, anche con la durata di 2 ore e un quarto, come quella odierna, si lasciano guardare. Io mi sono divertito oggi. Abbiamo avuto per tutta questa settimana e avremo corse che durano più di 4 ore e 20, per cui averne una così mi ha fatto piacere. Meteo permettendo, perché anche le previsioni per domani non sono bellissime. No, sentivo che sono buone, okay, mi sa. Ok. Va bene, e quindi comunque, questa è un po' la tua ricetta, no? Se vogliamo, per un quale? Ciclismo di quella delle tappe più a Michele piacciono le tappe corte. No, ma diceva una volta ogni tanto, no? Io citavo la ricetta perché forse è il caso di andare ad ascoltare un consiglio per la cena che forse arriverà, o per il pranzo, dipende da quanto ascoltate il podcast, perché quest'anno abbiamo qualcuno che prepara e o suggerisce delle leccornie per noi. Le ricette dei campioni, per campioni veri veri veri veri, per vincere con cibo e gusto. Buonasera amici e bentrovati a Le ricette dei campioni. Per una nuova, entusiasmante, ma soprattutto buonissima ricetta che vi permetterà di vincere! Salve Gustav, cosa ci prepara oggi? Beh, oggi andiamo a preparare una pasta asciutta con riduzione di lattuga balsamica per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. Sento già l'acquolina in bocca, oltre ad intravedere la maglia iridata. Sigla! Le ricette dei campioni, vincere, la ricetta di oggi. Questa ricetta è davvero semplicissima, banale quasi. Per fare un'ottima pasta asciutta con riduzione di lattuga balsamica per aggiudicarsi il titolo del campione del mondo, ci occorre un casco di banane del Mortirolo, una cipolla caramellata da una zia di primo grado, una lattuga ridotta all'osso e un formato di pasta a vostra scelta, ma meglio se non usate farfalle, rigatoni, fusilli e pennette in tutte le loro varianti. Frullate il tutto per circa un'ora, no, facciamo 2 ore, aggiungete cetrioli nordici a vostro piacimento, ma mi raccomando, non incorporate in maniera troppo energica. Non piace al piatto, non piace a me e non piace a chi vuole vincere. Dopo circa 2 ore e molta soddisfazione, il nostro piatto di pasta asciutta con riduzione di lattuga balsamica sarà pronto. Non vi resta che gustarlo prima di essere acclamati. Grazie, Gustav. E voi che ci seguite, siete pronti per il tetto del mondo? Le ricette dei campioni per vincere con cibo e gusto vi dà appuntamento alla prossima ricetta. Beh, questa era semplicissima, banale quasi come ricetta. Effettivamente ho qualche dubbio sul casco di banane del Mortirolo. Quello è difficile, però. Cioè, è un po' che. È vero che il clima cambia, sì. Magari adesso le banane sono arrivate. Ci vorrà qualche anno, speriamo. Io l'unica cosa che posso procurarmi è una zia di primo grado per caramellare le cipolle. Ma il resto scusami, ma la cipolla caramellata che zia ci vuole? Che zia ci vuole? La zia di Gilberto Simoni. Ah, è vero. Come caramella lei le cipolle, non le caramella nessuno. Quello era però eucalipto. Bisogna sentire zia Giacinta. Sì, sì. A cui mandiamo i nostri saluti e proseguiamo dopo questa ricetta che non vedo l'ora di assaggiare, anche perché se l'assaggio, ho mangiato un maiale al buffet per cui non ho fame, ma ho voglia di diventare campione del mondo e vincere, per cui l'assaggerò. Sì, abbiamo parlato della giornata di oggi poco, perché l'abbiamo passata in automobile fondamentalmente. Oggi siamo arrivati al quartier tappa prima della partenza della tappa. Mai successo partenza prima. Partenza ovviamente 2.0, non siamo arrivati al quartier tappa alle 8 del mattino, però... Un inedito nella nostra piccola storia e ci facciamo per questo raccontare uno dei luoghi, luogo di partenza, della partenza... ideale, iniziale, teorica della tappa. La partenza della tappa dei bus. La partenza della tappa dei bus da un, come dire, un nostro amico che è anche una presenza fissa della sala stampa, perché sì, è colui che, come dire, richiama all'ordine i giornalisti quando cominciano le conferenze stampa dei corridori. Nonché ci porta spesso i corridori la mattina per fare le interviste. È veramente una figura fondamentale per il nostro lavoro al Giro d'Italia e sono contento quindi di dare parola a un neporediese doc come Federico Bona. Beh, io non vedevo l'ora che una tappa del Giro partisse da Ivrea per parlare con una delle persone, una delle figure di riferimento dei nostri Giro d'Italia, che è Federico Bona, che è anche un'istituzione di Ivrea, o sbaglio? No, non un'istituzione, ci sono nato, ci vivo da quasi 60 anni, quindi diciamo qualcosina ho fatto in questi 60 anni a Ivrea. Poi specifichiamo, il Giro parte vicino a Ivrea, Borgo Franco di Ivrea. Allora Federico, io ti chiedo una cosa per far capire quanto sei importante per il nostro lavoro. Mi dici al microfono conferenza stampa della Maglia Rosa, come solo tu lo sai annunciare in sala stampa? È difficile perché poi si muovono tutti, comunque Pink Jersey Press Conference lo urlo un po' più forte in maniera che tutti i colleghi della sala stampa possano sentire e venire, e questa è una cosa che ormai da sei giri d'Italia faccio ed è uno dei divertissement del giro. Lasciami dire una cosa, io penso che sia un grandissimo meccanismo dove ogni ingranaggio ha la sua importanza. Ci sono delle persone fondamentali e tutti gli altri siamo utili e funzionali al funzionamento di questo meccanismo che è il Giro d'Italia, che da più di 100 anni funziona, si è evoluto, è cambiato, ed è bello anche sentire le persone con più anni di noi, con più giri di noi, raccontare. Roberto Bettini che ci racconta di quando c'erano i rullini e non c'erano le macchine digitali, ad esempio. Perché ad esempio tu in questo momento sei particolarmente in questo momento sei impegnato sul Giro d'Italia e basta, non penso che tu possa avere del tempo per pensare ad altro. Ma in questo periodo sei stato particolarmente impegnato per quanto riguarda la fotografia ciclistica. Sì, sono 2 anni che al Forte di Bar organizziamo una mostra basata sulle immagini del concorso The Best of Cycling che Roberto organizza ormai da 6 edizioni. Lo scorso anno è andata molto bene, abbiamo avuto 7.000 visitatori, l'avevamo fatto in occasione della tappa da Rivarolo Canavese a Cogne, quest'anno si è quindi deciso di riproporlo, l'abbiamo inaugurato una settimana prima che partisse il giro. Tu sei un appassionato di ciclismo comunque, prima di fare questo lavoro avevi la passione dalla tua? Sì, assolutamente, l'ho ereditata da mio papà, ricordo con estremo piacere un po' di commozione i pomeriggi passati con lui a guardare il giro, le altre corse in televisione, passione che ho trasmesso anche a mio figlio Giacomo, che ha corso qualche anno da giovanissimo ed è comunque appassionato di ciclismo. Difatti spesso ci confrontiamo, ci scontriamo, competiamo al fantaciclismo e molto spesso siamo andati insieme, prima che io iniziassi a fare il Giro d'Italia, a vedere le tappe assieme. Quella è l'unica cosa, l'unico rammarico che ho di vivere il Giro d'Italia da dentro, perché mi toglie questi momenti di condivisione con mio figlio Giacomo. Chi è il tuo capitano al fantaciclismo in questo giro? Remco Evenepoel. Hai passato più ore a guardare il ciclismo o a lanciare arance? Penso che dovrei fare un calcolo, perché sono due passioni. Non pensavo fino a qualche anno fa che ci fosse qualcosa che potesse pareggiare la mia passione per il carnevale, ma adesso dico che Giro d'Italia e carnevale sono sullo stesso piano. Ma il Giro d'Italia è una specie di carnevale o il carnevale è una specie di Giro d'Italia? Domanda marzulliana questa. Sono due cose entrambe estremamente viscerali che ti assorbono completamente. Nei giorni del carnevale esiste solo il carnevale, nei giorni del Giro esiste solo il Giro, se lo vivi così, e quindi entri proprio in un mood diverso che esclude praticamente tutto il resto. Ci spieghi solo ai nostri ascoltatori in un minuto, poi ti lascio andare. Cos'è il Carnevale di Ivrea? Come funziona? Perché? Perché ci si trova a lanciare delle arance? Allora, questo forse non basta un minuto, cercherò di essere velocissimo. Anche risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando il Carnevale di Ivrea già era una manifestazione molto vissuta dalla popolazione. La borghesia porediese andava a svernare in Costa Azzurra piuttosto che in Riviera, tornando portavano un po', come da noi si dice, parblaghè per sfarzo, così le arance, che all'epoca Ivrea erano dei frutti assolutamente esotici. Le ragazze le gettavano gentilmente ai ragazzi dai balconi per farsi notare. Dal gesto gentile si è passato a quello più scherzoso, a quello un po' più veemente, fino alla battaglia, quando poi le arance sono diventate comuni di facile reperimento anche a Ivrea. Quindi diciamo tra la prima e la seconda guerra mondiale si è iniziato a battagliare, e dopo la seconda guerra mondiale si è creata la battaglia così come la si vede oggi. E come dice il professor Barbero, un'invenzione della tradizione, perché da questa autogenesi si è poi andata a ricreare questa leggenda di lotta tra il popolo, che sono gli arancieri a terra, e gli sgherri del tiranno, che sono quelli sul carro. Però diciamo è un'interpretazione che è stata data poi a posteriori. Ma è una bella sberla prendersi un'arancia in faccia o addosso in generale, no? Sì, fa male. Io stesso quest'anno ho avuto una frattura del setto nasale. Una frattura addirittura? Sì. Però fa parte del gioco. Se giochi a rugby sai che puoi farti male, se tiri l'arancia sai che puoi farti male, se ti dedichi alle freccette o alla scala 40 hai molta più tranquillità. Ma a te piacciono le arance da mangiare o sei solo un lanciatore o ricevitore di arance? No, le mangio, le tiro, le annuso. L'altra sera nel ristorante che ci hanno portato una ciotola di frutta con un'arancia, ho iniziato a massaggiarla, a palparla, perché proprio avere un'arancia in mano per noi porediesi è già come un momento emozionante. Apotropaico? Apotropaico. Beh, noi diciamo arrivederci a Jobbian Bot alla fine del carnevale, che vuol dire arrivederci al prossimo giovedì grasso. Ha un significato particolare, perché vuol dire qualcosa finisce ma noi ci rivediamo quando ricomincia. Come il Giro. Come il Giro, esattamente. Grazie. Non credo che sarò in grado di ripetere questo saluto eporediese. posso provare ad ascoltarlo e riascoltarlo, ma lo sbaglierei. Era più caso. Facile il lettone di ieri di Squinch. Forse me. Era più facile il lettone, ma ringraziamo Federico per questa chiacchierata. Prima di guardare alla giornata di domani, facciamo un altro passettino verso la giornata di ieri, perché non avendo fatto incontri quest'oggi, gioco forza, perché eravamo impegnati sulla strada a motore, ci siamo portati avanti. Ieri abbiamo fatto anche alcuni incontri relativi al ciclismo pedalato. Sì, perché ci piace avere ogni giorno almeno un'intervista con un corridore. Ieri abbiamo voluto fare il punto rapido del giro, del primo Giro d'Italia di Martin Marcellusi della Bardiani, che forse ricorderete era stato la primissima voce del nostro podcast. Gli avevamo chiesto sensazioni e emozioni della vigilia nel nostro episodio zero. Ieri siamo andati a chiedergli come sta andando dopo 10-11 tappe ormai questo suo primo Giro d'Italia. Allora, Martin Marcellusi, come stai? Un po' stanco, però penso sia normale, dai. Tu ci hai mandato un audio prima del primo giorno, no? Il tuo giro di esordio. Le gambe come stanno? Il morale come sta? Beh, dai, il morale diciamo che fa su e giù. Una tappa va bene, una va male, però si sa, il giro è così. Non ho mai fatto questi sforzi, quindi non saprei cosa aspettarmi. Però finora, te l'ho detto, il morale è andato su, giù, non ci si capisce nulla. Però dai, tutto sommato sta andando abbastanza bene. Come si diventa un ciclista professionista che fa il Giro d'Italia a Roma? È dura. Penso che rispetto a qualsiasi altro corridore del nord sia 10 volte più dura, perché ci sono distrazioni, non ci sono le squadre che riescano a supportarti come succede al nord, quindi devi metterci il doppio della passione, il doppio dell'impegno degli altri. In che tipo di gare o tappe pensi di poter dare il meglio? Quali sono le tue caratteristiche? Penso di essere abbastanza veloce, su arrivi con un gruppetto ristretto. Certo, qui è difficile perché i gruppetti ristretti se ne fanno pochi, e quando si fanno io purtroppo ancora non sono mai riuscito a stare davanti, però la gamba sta andando in miglioramento, quindi magari nei prossimi giorni, chissà. Bocca al lupo e buon giro. Grazie, capello. Martin Marcellusi al suo primo Giro d'Italia. Ieri in sala stampa abbiamo incontrato anche una persona che qualche Giro d'Italia nelle gambe ce l'ha. Mi sa tanti. Nelle gambe non lo Beh, so. ricordiamo un suo celeberrimo scatto a Ah, è piedi, per vero, cui vero, a piedi, sì, ce l'ha certo. anche nelle gambe. È inutile stare a introdurlo. Finalmente abbiamo incontrato anche quest'anno Gianni Savio. Oggi possiamo dire finalmente che è iniziato il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia inizia quando si incontra Gianni Savio. Magari fosse così. Il giro mi manca, chiaramente, E però tu manchi al giro. grazie, siete troppo gentili. Non potevamo fare diversamente. Abbiamo compiuto un miracolo nel salvare la squadra. E poi io sono molto conosciuto in Colombia, ho ricevuto questa offerta per un abbinamento e quindi abbiamo questa nuova squadra che praticamente riparte da zero, una Continental, la GW Shimano Sidermec, che peraltro si sta comportando bene perché abbiamo già vinto 12 corse, ma in Italia abbiamo vinto il giro della provincia di, anzi, un tempo si chiamava giro della provincia di Reggio Calabria, oggi è giro della città metropolitana di Reggio Calabria, però la sostanza è la È stessa. la corsa col nome più lungo che Sì, abbiamo mai sentito. difatti, difatti. Gianni, il ciclismo ovviamente è la cosa che amiamo tutti, però tu come stai? Perché gli ultimi tempi sono stati un po', no? Come dire? È una domanda intelligente, nel senso che Grazie. gli ultimi tempi sono stati veramente problematici. Problematici perché, insomma, io non potevo, al 39esimo anno di attività, praticamente chiudere in un modo poco dignitoso. Oltretutto avevamo anche dei corridori con contratto quest'anno e quindi li abbiamo piazzati in questa nostra nuova squadra, in questa Alianza Colombo-Italiana, però questo mi è costato molto in termini di stress, in termini di tensione. Infatti c'è stato un momento in cui anche fisicamente non stavo molto bene, però ora ho ripreso e per fortuna sto nuovamente bene. Però la domanda è assolutamente pertinente. In questo giro stanno arrivando parecchie volte le fughe. Tu sei un po' un maestro delle fughe degli Demiurgo. Demiurgo. Cosa ne pensi? Sei contento? Tu sei comunque felice anche se non c'è la tua squadra. No, no, no, sono contento di vedere che i corridori interpretano con grande determinazione, no? La corsa. E io ho sempre detto ai miei corridori, sempre, che per vincere occorre andare in fuga, perché bisogna essere realisti. Se si arriva con un gruppo compatto ai piedi di una salita, è ovvio che poi in salita scattano e se ne vanno i big. E lì un buon corridore, ma non riesce, grazie che tenga le ruote, ma non riesce a raggiungere, superare e vincere con il big. Se si arriva in una volata, si sa che i velocisti, grandi velocisti, se la giocano tra di loro, quindi le tappe, squadre professional, devono cercare di vincerle proprio andando in fuga, possibilmente avendo la fortuna di avere un gruppo numeroso, un folto gruppo, quando parlo di folto gruppo, una dozzina, una quindicina di corridori, e poi questo gruppo si sgretola, avere la forza per rimanere davanti e andare a vincere. Noi abbiamo vinto così con Fausto Masnada, se ve lo ricordate, certo. A San Giovanni Rotondo, in questo modo. Due cose solo velocissime, perché hai la coda. Quante persone devi salutare quest'oggi al Giro d'Italia? Ma ci sono tanti amici che da un po' non vedo e quindi mi fa molto piacere, peraltro. E poi ovviamente non posso seguire assolutamente tutto il Giro. Poi devo pensare alla nostra squadra, perché faremo il Giro dell'Appennino e poi ci sarà il Giro d'Italia Under 23. E lì abbiamo dei corridori validi, perché noi abbiamo corso 2 settimane fa è terminata la Vuelta della Juventud e l'abbiamo vinta con Herman Gomez. Abbiamo vinto anche la classifica a punti con Santiago Umba e quindi con questi corridori contiamo di poter disputare un buon Giro d'Italia Under 23. Grazie. E allora ringraziamo il sempre gentile, sorridente e proficuo di aneddoti Gianni Savio, speriamo di rivederlo al Giro d'Italia l'anno prossimo. Oh. Sì, e speriamo che continui a raccontare queste corse dei suoi corridori colombiani, di queste corse, permettetemi la parola, minori, ma io starei veramente proporrò a Gianni Savio di fare un podcast in cui racconta gare giovanili sudamericane e nomi di giovani talenti. Sì, sì, tra l'altro la sua presenza porta anche bene. Ieri è arrivato, stamattina era anche alla partenza da Borgo Franco di Ivrea, ha vinto un colombiano. E quindi bene così. Nel futuro speriamo di riavere Gianni Savio al Giro. Nel futuro più breve, che parla della tappa di domani, andiamo a farcela presentare al solito modo, un po', come dire, leggero, come piace a noi, da un corridore, da Simon Clark. Sì, perché domani c'è la Sempione Melbourne, ricordiamo. No, non c'è. Credo che prevederebbe uno sciopero dei corridori se ci fosse una tappa del genere. Ma l'abbiamo chiesto a Clark perché Clark, la compagna di Simon Clark, è di Varese, quindi Clark conosce bene la zona. Adesso loro vivono ad Andorra, ma contano, pensano in futuro di trasferirsi in Italia. Lui conosce la zona, gli abbiamo chiesto di introdurci la tappa numero 14 del sì. Giro d'Italia 2023. È la prima tappa nel Giro in non so quanti anni che arriva in zona Varese. E sì, praticamente partiamo, non so neanche esattamente il paese, prima in Svizzera, partiamo prima del San Bernardo e poi praticamente c'è solo questa unica salita e poi si scende verso Domodossola e si fa il lago Maggiore dalla Val d'Aosta, dalla Verbania, dalla parte ovest e poi si traversa verso est passando i laghi verso la provincia di Varese e l'arrivo a Cassano. Dove fermarci a bere e mangiare qualcosa in quella zona? Cosa mangiare? Io e mia moglie è di Cantello, che è 10 minuti da Varese, è il paese degli asparagi. E ovviamente bisogna mangiare gli asparagi. In che modo? Con l'uovo e basta. E basta, semplice così. Sì, sì, il piatto del paese, tipico del paese. E allora, il menù di domani prevede asparagi di Cantello con l'uovo, invece il menù della tappa, dell'altimetria, Michele, cosa prevede domani? 194 km da Sierre, sempre in Svizzera, a Cassano Magnago, con un GPM di prima categoria nei primissimi chilometri della tappa stessa. Il passo del Sempione, fino a 2004 metri di altitudine, è una salita di ben 20,2 km, le pendenze più acerbe, le presenta nella prima... Acerbe, nel senso che devono ancora maturare. Sì, tipo gli asparagi. Tipo gli asparagi, okay. Questa... Beh, la tettonica funziona così comunque. Mi confermi? Le pendenze, esatto, cambiano. Non credo che si facciano più dure, ma devono maturare. Secondo me volevi dire arcigne. Sì, o aspre. No, o aspre, va bene. Appunto, va bene, sono dove? Il Sempione. Il Sempione, ovviamente. Il famoso Sempione, passo che da secoli... I nostri avi dopo bene. Però, quando si scende in Val d'Ossola, è tutto quanto un piattone di oltre, no, diciamo circa 100 km fino a Cassano Magnago. Per cui chi resiste sul passo potrebbe poi trovarsi ricompensato da una volata in Lombardia. Domani è una tappa di difficile pronostico, secondo me. Sono combattuto personalmente tra fuga e volata. Michele? Penso che la fuga potrebbe avvantaggiarsi parecchio sulla prima salita. Secondo me, se si stacca il drappello giusto, può arrivare all'arrivo. Ha bisogno di grandi pedalatori, soprattutto in pianura, di discesisti efficaci. Secondo me arriva la fuga e, se vuoi un pronostico secco, domani vince proprio Simon Clark. Domani arriviamo nella provincia di Varese. Io passerò l'intero viaggio in automobile a cantarvi l'inno dei mondiali di Varese. Varese va di memoria, amici, una delle hit mie preferite della storia del ciclismo. Mondiali di Varese premiarono un corridore veneto, Alessandro Ballan. Domani arriva la volata e vince il veneto Dainese. Ci può essere. Io non so se arriva la fuga alla volata, però mi spingo a dire che in ogni caso, in entrambi i casi, potrebbe vincere il mio favorito, è Michael Matthews, che va bene per tutte le stagioni. Matthews che potrebbe ravvivare un po' una lotta per la Ciclavino, che oggi ha perso un componente importante, il secondo in classifica da Ciclamino, che è Mats Pedersen, che non è partito per una tracheite. Sì, unico corridore non partito, Mats Pedersen, mentre Michael Matthews oggi ha fatto una tappa incredibile. A un certo punto era, cioè, è stato a lungo con il gruppo Maglia Rosa. Sì, la gamba, sì, esatto, non gli manca. Volevo dirvi al volo come si era piazzato, ma non ve lo dirò perché non sono così bravo a leggere velocemente. Va bene, io invece sono bravo a leggere la scaletta e leggo che siamo arrivati ai saluti, è giusto? Manca qualcosa? Manca un appuntamento da dare a tutti i nostri ascoltatori. Domani, sabato 20 maggio, è sabato 20 maggio domani, io ho perso, sì, sì, completamente il concetto del tempo. Alla Sartoria Ciclistica di Como, presentazione, prima presentazione per il nuovo, la nuova uscita della collana di libri Pagine al Vento. Il libro è la biografia di Giovanni Visconti, si chiama Un primo 60 secondi, scritta da Giovanni Visconti con Enzo Vicennati. Domani alla Sartoria Ciclistica di Como alle 19.30 la presenteranno e con loro ci sarà la voce barricatissima di Gino Cervi. Fantastico, quindi siateci se potete. Lo rifaranno poi il giorno dopo a Bergamo, ma questo ve lo ricordiamo domani. Vi ricordiamo che domani ci siamo ancora una volta con una puntata di Geronimo. E grazie e alla prossima. Ciao. Ciao.